có một tay rồi người ta coi rồi pinto lo tiene un compañero con una barba muy larga arre arre arre pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla pilla compañero de no, digo compañero de Tito y digo, este compañero de Tito es Seri, es Seri, este es Seri, no es Seri, me veo la barba, digo, Seri no es. Porque me iba al mercado, ¿eh? Él tiene mis orillas también, ¿no? Este hombre dirá, que será escalado este con la voz. ¿Tú crees que eso será ya despejado, no, Luis? Io ci sono già, sono qua anche io. Ok, va bene, dai, io va bene, adesso lasciamo che Claudio fumuti il deviatore antenna. Non so se fosse attaccata direttamente a quella, non so, ma non credo, perché lui ha il commutatore, gira, è già in partenza. Vengo qua. Sì, ho la T230 io con tre ingressi, quindi uno è sulla 48, uno è su quella lì e uno è su questa, non ho commutato subito, è che stavo cambiando banda perché c'avevo anche questa accesa e quindi ho dovuto rimettere sul 10. Comunque, vediamo se lo smitti qua si muove, no, vedi, in AM non c'è segnale, mentre invece se lo metto in FM gli entro, quindi il segnale ce l'ha da questa a quella, però in FM, in AM, vedi, anche sullo stesso canale non gli entra come segnale. Come segnale dello smitter e non ti senti proprio? No, non mi sento proprio e il segnale dello smitter non si muove in AM, mentre in FM mi sento, il segnale le entra anche nello smitter, fa lo scala. Quindi ha praticamente il profondo rapporto finale della trasmissione di AM entra, come se gli mancasse tutta una tensione. Veramente mi manca una tensione qua. Sì, Anto, è tutto un problema di tensioni e queste radio io le uso dal 1987, mi ricordo quando io ce l'avevo già quando lavoravo a Cagliari, che stavo tutta la settimana fuori, poi rientravo praticamente il venerdì, chiaramente mi dedicavo alla famiglia, avevo già la bambina piccola, poi magari il sabato uscivamo, la domenica mattina, la domenica notte praticamente alle 4 ripartivo per essere alle 7 a Cagliari, quindi la radio rimaneva settimane e settimane spenta, addirittura anche mesi. L'ultima volta è capitato proprio una cosa del genere, sono andato ad accendere, ho detto esci che accendo a vedere se è tutto a posto, ed era tutta piena di buntini, una va ricezione, non va niente, quindi tutte le tensioni calate, insomma è un casino. Mentre questa non trasmetteva e non riceveva, mentre questa che riceve e trasmette in determinate circostanze, secondo me sono tutte le tensioni che sono andate a farsi fottere. Ma tu a quelle reset che hai fatto? Sì, Anto, ma non ho frequenzimetro, ho fatto il reset, l'ho sentito, però non so se è andata a 14.000, dove è andata, devo metterle il frequenzimetro, cioè devo cercare di capire se il frequenzimetro è da sostituire, oppure se non arriva a tensione al frequenzimetro, come ne abbiamo parlato, no? Una volta che io vedo la frequenza e cambio dal down e up, perché ho cambiato, cambia benissimo, ho fatto i sonda con le mie, capito? Ho fatto prima una banda di centratura 7100 e ci sono andato tenendo la portante calcata, ci sono andato e me la sono messa in isonda. Una volta che poi sono rimasto fermo a 7100, ho prima provato quanti scatti faceva la mia col down e up, me li ho tutti segnati, per arrivare sino alla 27, e così ho fatto con quella là, gli stessi scatti del down e up corrispondono con questa, quindi tutta quella parte meccanica, l'accordatore è velocissimo, è molto più veloce del mio, i filtri funzionano tutti perché c'è il filtro SSB e il filtro CW, sicuramente questo radiomatore, perché era un radiomatore che la usava in barca, che adesso non c'è più, faceva sicuramente telegrafia con quella radio, capito? Perciò corrisponde tutto, attenuatore, si abbassa il segnale, funziona tutto, però in modo molto molto più basso rispetto a questa. Sì, sicuramente ci sono abbassate le tensioni, ma per via di qualche componente che sta in serie, cioè, quindi si abbassa lì, si abbassa lì, si abbassa là, poi arriva nel punto giusto e poi c'è una parte proprio spenta, quindi la parte dell'anno è spenta, quindi lì già non sta arrivando proprio tensione. Si conferma, perché se fosse stata la parte del VCO fa un'altra cosa, capito? Poi vabbè, è da vedere, era tantissimi anni ferma, circa 6-7 anni, forse anche 8 anni, dentro questo cassone della barca, infatti hanno tolto il piedistallo che la solleva da sotto, gli hanno messo dei gommini per incastrarla bene, e la maniglia gli hanno tolto se non incastrata. Però ti ripeto, esteticamente è in buonissime condizioni, per dov'era e per com'era è in buonissime condizioni. Quindi vedo che va, riceve, fa, quindi si tratta innanzitutto di mettere a posto tutte le tensioni, far accendere il frequenzimetro e poi lavorarci pian pianino, se ci sono delle cosettine da cambiare si cambiano, però non la do. Sì, sono riuscito a farmela dare, non la volevo dare, se la volevo mettere a posto lui, me l'ho convinto, un amico, pagata 100 euro. Fai anche che ce ne spenda altre 100, altre 150, ma c'è una radio che fa bene, insomma. Chi è che voleva entrare? Daniele, tu sei? Ti sono rientrato, dai. Anche Leo. KK, dai, siamo passati qua, così va bene, dai. Le prove le abbiamo fatte, va bene così. Sono contento comunque che funzioni, almeno so che è da mettere a posto, dai. Non accendeva tanto, era completamente morta, sono riuscito a farla accendere, a farla trasmettere piano piano, spostandomi. Il VFO, non sai quanto era duro, proprio inchiodato, l'ho sbloccato perché ho abbassato il frontalino, tutto, là sopra, l'ho smontato, l'ho lubrificato, sbloccato, adesso è perfettissimo come il mio, cammina da solo, è perfetto, capito? Quindi è proprio questione di radio buttata lì, peccato veramente. Comunque, piano piano la mettiamo a posto. Allora, avanti Daniele, prendi tu. Cava! No, stavolta si riusciva a vedere il rally, da qualche parte invece zero. Non so se è iniziato il mondiale, non so, se c'è qualche riferita su Rai Sport, non lo so. Vabbè, avanti già. Vabbè, a me non lo so. E via. Scala, no, non è scala, quanto sono i mondiali, c'è la postazione a Larghero come gli altri anni. Partono da Alghero. Vai. E a me non sono mai andato a vederlo, sinceramente. Non l'ho mai visto. La verità. Conto che la faccia fatta fotografia, ma non sono mai andato, la verità. Sarei sempre voluto andare anche a fare scala calcare, ma le cose, diciamo, le situazioni mi hanno sempre bloccato. Lavoro, questo, quell'altro, non sono mai riuscito a fare. Andava bene, Giulio, riprendi. Ok, sì, è Alghero, il Red Alghero. Fanno in diversi paesi, fanno, non è. Anche domenica ci sarà. Cioè, sabato anche domenica. Anzi, domani è domenica anche, sì, Alghero. Io lo so perché c'è mia figlia che è il cognome, sennò è Red. Per cui so che abbraccia molti, ma molti paesi abbraccia. Tornando al discorso della radio qua, evidentemente lì ha preso la condensa di quella tipo sensibile e ti ha bloccato certe cose, certe funzioni. Però dando giù una bella ripassata, vedrai che tutto si sistema e la metti di nuovo macchine in funzione, magari anche per diversi anni, per cui hai fatto bene a prendertela e l'hai recuperata, dai, tutto sommato è già mezzo recuperata, adesso le dai l'ultimo ritocchino la fai e così ce la fai alla grande, nuova diventa. Poi mi stai dicendo che è nuova come carcassa, per cui nuovo fuori, la fai nuovo dentro e si è a posto, vai qua. Giulio, dentro è immacolata, non è mai stato riparato niente, io le conosco le riparazioni di quelle radio, so dove più o meno vanno a lavorarci. Ha tutte le fascette originali, quelle piccoline, tutti i fili sono al suo posto, io ho tolto tutte le spinette a uno, rimesse, lubrificate, pulite con il disossidante, con l'acetone, capito, con i suoi cosi, dai, rimesse tutte, è lì che ha iniziato a dare dei segni, però c'è da lavorarci tantissimo, c'è da vedere tante cose, io strumentazione non ne ho, nel mio piccolo sono riuscito insomma a fare quello che ho fatto, adesso vediamo piano piano, domani mi rimetto, me la porto in campagna, c'ho spazio, l'apro, l'alimentatore, insomma tutto, vedo tutta la parte del circuito stampato, tutta quella roba lì, la parte del relay è fiammante, nuova, fa tutti gli scambi, banda per banda, cioè perché buttarla via, anche se ci rimetto altri quattrini sopra, poi tolgo i coperchi, la porto a Roberto col colore originale, mi faccio riverniciare i coperchi frontalino, nuovo, non c'è un graffio. C'è anche tutti i filtri, c'è il filtro SSB, il filtro CW, quindi va bene, va benissimo, ottimo per la truppa, dai. Ok, avanti, Anto, riprendi. Sì, bene, quindi stavo riparando io un rosmetro, stavo cercando di dare una controllata, adesso sembra che stia funzionando, ma l'avevo guidato tu, 30 anni fa. Sì, c'è ancora dai, ce l'ho. Sì, un Decker, SVR200. Sì, ce n'è un altro io, Cosa ti serve? A me mi pare che sono rotti, a me, agli sciuguato di Franco California, mi sono rotti i vetrini, capito? Perché è vetro quello. Però se ti serve a pensare il cambio, io ce l'ho un altro di quelli. Ma se ce l'hai, mi serve praticamente la cosa, la scritta, perché in questo qui, in un lato, avessi messo un altro adesivo. La scritta, ma non è quello che c'ha il pomellino, che c'ha i numeri, quello lì è? No, quello grigio strano, verde, grigio verde, con la manopola al centro, così, capito, avrà, che ha il pulsante nei lati da 52 ohm e anche da 65. Sì, che c'ha i pulsanti al lato, entra e esci, quello lì è? Sì, quello lì. Certo c'ha, ma quando mi ha dato, c'aveva già uno strumentino già adattato, però si è bloccato, stavo cercando di adattarne un altro, però e mi pare anche questo ci abbia qualcosa bloccata, ma comunque a pezzi te lo do, sì, non ci vediamo, te lo do anche dentro l'armadio, ne avevo due di quelli lì, erano abbastanza precisi anche, va bene. Ok, sto sempre macinando la testa, cosa cacchio devo fare con quella roba lì, perché adesso le tensioni mi pare le avevo scritte da qualche parte, però vediamo se è roba che posso fare io, se no la lascio stare così e la porto, perché Fabrizio non c'ha tempo, quindi vediamo se qualcuno mi dà la mano a metterla a posto, la mettiamo a posto. Avanti, Daniele, amata di Nevaria, riprendi tu Giulio. Ok, sì. Allora, sai, io mi ricordo, sai come li puliva i circuiti elettronici? Emanuele Borani, ma no, io ci andavo spesso in laboratorio da lui, li puliva di lavoro con la triedina, con un pennellino, senza fare l'anno, li lavava con la triedina, poi li faceva faccio male, quando era asciutto ti metteva in funzione di nuovo, perché quando ha bagnato giustamente, poi la pinedina ti pulisce il circuito, te lo fa lucido, brillante, te lo fa veramente. Io questo l'ho visto da Emanuele, buon'anima, quando lui aveva appunto il laboratorio, e per cui è quello che ti sto dicendo. Però ricordati che vuoi far asciugare, non attaccare subito, fallo asciugare, lavi e poi asciughi. Una volta che hai asciutto puoi attaccare tranquillamente. Capito qua? Sì, ehi, ho pulito il circuito stampato con la tredina e cose. Me l'aveva fatto vedere CH23 di Chiaramonti. Sì, sì, sì, ma anch'io, io ce l'ho la tredina, c'ho un amico che ha la lavasecco, quindi me ne ha dato un pochettino e ho pulito tutto con la tredina, quasi tutto, e infatti è iniziato veramente a funzionare, quindi suppongo che sia roba di ossido, roba di... Però a parte quello, che adesso è tutta pulita dentro, perché è pulita, ma non aveva niente di che, devo vedere il circuito stampato e chiaramente rivedere tutte le tensioni. Una volta che ho rivisto le tensioni e la radio è accesa, quindi ci vuole anche il frequenzimetro, bisogna prima far funzionare il frequenzimetro, se non riesco a muovermi, capito? Allora se ne può parlare. Per il momento adesso è accesa, vediamo se succede qualcosa. Se succede qualcosa va bene, se no vediamo un po', dai. Comunque, quello potevo fare io l'ho fatto, altro non posso fare perché non sono un tecnico, non ho la strumentazione, però mi arrangio a fare queste cose, ho già iniziato a vedere che la radio va, e quello è già un buono, va, è già un buono, perché non accendeva, no? Era muta completamente, non accendeva niente. Avanti già. Ehi, allora, e appunto magari si riprende anche da solo, pure riscaldare si riprende, non è detto che sia proprio... abbia qualche componente che non va bene. Ora sì che si riprenda, se è un po' di fortuna. Ehi, già, se non si riprende, gliela facciamo riprendere. Mettiamo le scarpe nuove, l'abito nuovo, e vabbè, sì, beh, componenti in ferita ce n'è. Le tensioni sono sicuramente molto più basse, perché sono tensioni che vanno tutte regolate, devono essere stabili, perché se si abbassa una tensione si crea problemi, queste radio sono così. Quindi adesso vediamo, adesso io quello potevo fare l'ho fatto, adesso vediamo domani o stasera, allora dice la chiamo a Carlo, vediamo se ne ha voglia, ci mettiamo e già la facciamo funzionare, dai. Avanti Daniele, ci sei? Sì, ciao Robè. E beh, allora, sì, c'ho tutto, però ti ripeto, Robè, è una radio che era dentro una barca 8 anni, in questa barca praticamente era secco. L'hanno tirata fuori dall'acqua, era 8 anni, un cantiere navale di Olbia, e quindi il padrone l'ha venduta e ha tolto quella radio lì, tutta la strumentazione di bordo, eccetera. E quando io sono andato a portarla via, l'ho provata, però non accendeva, ho detto, ma appetti il ricambio, me la porto via. E invece sono riuscito a farla accendere e trasmette anche, non come deve essere, però trasmette, perciò è tutto da rivedere, tensioni e balle varie, Robè, capito? Guarda Robè, ce l'ha voi e te la metti sotto mano, io non ho problemi a dartela, anche perché io ho poco tempo ciò, perché sì, sono in pensione ma sto ancora lavorando. Non è che ci vedo molto, quello che potevo fare l'ho fatto, la radio, ti ripeto, riceve e trasmette in FM, trasmette ma non riceve in AM, i segnali sono un po' al culo di scimmia per non dire altro, quindi secondo me sono tensioni da rivedere, poi la parte di sicuramente qualche condensatore, qualche diodo, qualche resistenza in ferita c'è, quindi su quello non c'è dubbio, e soprattutto vedere perché è spenta, c'è solo lo smitter acceso, vedere se arriva la tensione al frequenzimetro, e se arriva c'è da cambiare il frequenzimetro, quello si ordina e si cambia, è la prima cosa da fare, altrimenti non si può commutare banda per vedere dove sono per fare le tensioni e per lavorarci, capito? Lo commuta bene, il down e up funziona, ho fatto esonda con la mia, ho cercato di, infatti sono qua nel 10, l'ho messa anche quella nel 10, facendo esonda, l'ho bloccata ed è ferma lì, Robè, capito? Se siete voi a pensare, io problemi non ne ho, non ne ho. Pagando con i soldi mi dici quello che ci vuole, cosa c'è da comprare, tutto quello che ti piace. Siete voi a pensare, vediamoci quando vuoi, quando esci dal lavoro, faccia e te la porti via. Fammi sapere se ti vuoi appentare, vabbè, problemi non ce ne so. Sono in compagnia di Gianni, Antonio Riserva sicuramente non lo senti ad Alghero, mi pare non lo sentivi neanche l'altro giorno. C'è Giulio e Daniele, Roberto D'Alghero, un collega d'Arrivatore. Avanti Gianni, l'ho sentito, tu l'hai sentito anche ieri. Calma, ciao Roberto, mi hai sentito anche a te, dai, buonasera. Sì, sì, sì, sì, Roberto, ci teniamo in contatto, non ti preoccupare. Ti faccio salutare da Giulio, vai giù. Ok, non so se mi senti, Alghero, tu lo sai che per Alghero io non è che sono vado molto bene. Ciao Roberto, se mi ascolti, Giulio la Sassa, avanti Roberto. Non mi senti? Roberto, lo senti, Alghero? No. Gli ha detto che ti sente Santiago 1-2, ma non riesce a percepire quello dei picchi. Anch'io lo sento basso, io lo sento Santiago 4-5, però non capisco quello che dici perché è troppo basso il radio, per cui, vabbè, io ho l'antenna bassa e bisogna che mi decida a spostarla, o farlo bene a sollevarla anche nel punto dove si trova. Vabbè, avanti Antonio. Antonio, ciao Robè, ci aggiorniamo comunque, dai, Antonio, gappa Robè, va bene. Io continuo a provarci, poi vediamo, fino a dove arrivo, arrivo. Poi il resto lo farà chi ha la strumentazione e la voglia di farla, non c'è problema. Sempre con soldi alla mano naturalmente, gratis, no, non voglio niente. Antonio, ci sei? Daniele? Aio, Murchi? Chi va tra? È venuto il piccoletto là, adesso sei nuovo risalito su. Ah, per quello, ho capito. Va bene, ok, allora riprendi e fai girare, dai. Cava, cava. Quindi qua la radio è lì, ferma. Sì, Daniele, l'ho presa così, a questi ricambi, ho visto che le munizioni in condizioni, Sai, pezzi del 440 è difficile da trovare. E quindi sempre meglio averne una di scorta. Ho visto che lavorando ci verranno un po' alcune cosette così, giusto per esperienza fatta, chiaro che non ho la strumentazione adatta per poter fare tante altre cose, ma comunque pian pianino già, adesso la prima cosa da fare è vedere se arriva la tensione al frequenzimetro. Se arriva la tensione al frequenzimetro vuol dire che il frequenzimetro è rotto, è bruciato, non so perché comunque è bruciato, ma può succedere, non mi si è bruciato quello del 430, me l'aveva sostituito Fabrizio, nuovo, comprato negli Stati Uniti, quindi. Però ho visto, costa 42 euro più la spedizione, si può anche mettere nuovo, non è quello il problema, e poi vedere tutto il resto, tutte le tensioni, tutte le cose sono a sostituire, dio di condensatori, resistenze, balle varie, costano una fesseria, quindi si tratta di mettersi pian pianino e fare tutte queste cosette, poi vabbè, io ne ho gente che le può dare un'occhiata a parte Fabrizio. Peccato perché facendola lui sarei stato molto più sereno, però non ha tempo neanche per lui, quindi me l'ha già detto. Va bene, avanti Antonio, riprendi. Antonio che ha giù due Gabriele, vai giù. Ok, lo capisco, a Fabrizio lo capisco che sicuramente è un periodo per lui che ne manca il tempo, dopo tutto quello che ha avuto. Si è dovuto sistemare tutto il radio, anzi sta ancora sistemando sicuramente qualcuna, per cui va bene così, dai. Ma comunque qua tanto fretta non ne hai nemmeno di aggiustarlo quello, però voglio dire, non ti arrendere, mettilo in funzione e fallo funzionare la grande, perché viste considerato che già funziona così, figuriamoci, una piccola messa a punto, qualche ritoccatina e va bene. Ok, avanti Gianni. E avanti come sono tre? Sì, ti ripeto, io non sono un tecnico, mi arrangio a fare qualche cosetta, giustamente ci vuole anche le attrezzature, però lì ho già visto che si tratta di cose di come si dice, di usura, chiamiamola così, di non accensione, di radio abbandonata, ecco, perché dentro è veramente nuova. Ti posso garantire che è più nuova della mia, a me qualche fascetta è diversa, anche se in ordine, perché questa che io dico lo stesso l'ho revisionata a Fabrizio l'anno scorso, perché io questa l'ho comprata da Roberto, capito? Se no usavo sempre il 430, la mia l'avevo venduta, però mi piace troppo, me la sono ricomprata e siccome la conoscevo questa radio, che anche questa era la mia, data a Roberto, Roberto poi l'ha tenuta ferma, che questa ha condensatori da fare, io te la compro, però la voglio a posto, allora l'aveva fatta Fabrizio, l'aveva fatta tutta revisionale, perciò anche questa è tutta a posto, eccetera. Quindi cioè, le cose che posso fare le faccio, quelle che non posso fare io non le tocco, perché se non sei competente è inutile metterci le mani, però io ci voglio provare a rivedere tutta la parte di circuito stampato, com'è, se è ossidato, non ossidato, ma ti ripeto, dentro era nuovissima, c'era qualche ragnatelina, qualche cosa, le spinette uscivano benissimo, non erano ossidate, però le ho tutte pulite, evidentemente sono andato a pulire qualcosa che ha fatto sì che la radio riprendesse a funzionare almeno in FM, se non del tutto, perché ti ripeto, il segnale non c'è, però la ricezione, la trasmissione c'è, capito? È un po' sorda come segnale, però è molto importante che abbia ripreso a funzionare, adesso la tengo accesa, vediamo se qualcosa si sblocca, se no piano piano vediamo, vai Giulio, ti ripeto, non posso fare miracoli perché non sono all'altezza di fare miracoli, se avessi avuto strumentazione, capacità e tecnica sarebbe stata già riparata, però mi arrangio come tutti, e soprattutto perché le conosco quelle radio, altrimenti non ci avrei messo manco le mani dentro. Antonio! Bacia Carraio, grazie, buone fuoco, una partita. Ciao a tutti, là, se non ascolto. Antonio, che volevo fare una cosa fatta bene, metterla a posto, tutta in ordine, regalartela, adesso non te la regalo più. E te li dirà. Va bene, me la tengo. Ciao, buonasera, là, se non ascolto, sto facendo cosa, ciao a tutti. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, ben sentito. Ciao Massimiliano. Indaffarato, sì. Beh, sempre indaffarato. Cavo di Druccola. Va bene, va bene. Riprendi, Daniele, vai. Cava. Quindi io invece stavo facendo un paio di collegamenti con Luca, a sentire un po' quella radio, come funziona. T'avevo già detto, cla. E già abbiamo collegato, dai. Bene, bene. Ci siamo divertiti un po'. Vabbè, se avete fatto prove e provette già vabbè, dove siete mezza sono, dai, io inizio a prepararmi ragazzi, così mi faccio una passeggiatina con cane al fresco, dai, se ci siete riprendo dopo, ok, già, a te il microfono. Ehi, dai, buona passeggiata, mi sa che anche io mi alzo, perché così almeno qui mi guardo il televisore sotto al capito. Devo stare alla retta, se no c'è molto caldo, perché oggi c'è una primaverana che si paga la formaggio. Avanti. Ok, ciao qua, allora, buona passeggiata, ci sentiamo domani. Ok, avanti Daniele. Oh capacla dai, o dopo alle prossime ci ascoltiamo, dai, buon proseguimento e buon tutto. Oggi già ne ha picchiato lo stesso, un po' di caldo, dai, non tantissimo, ma già picchiato. Ok. Gianni, oggi come ti senti? Gianni, forse è di nuovo al telefono. Beh, tu Daniele, l'antenna già sta funzionando bene, ti sento molto bene, per cui sempre lì con la posizione che mi avevi mandato su WhatsApp, sempre lì è rimasta, non l'hai cambiata ancora. Sempre lì, Giulia, sempre lì, sempre pezza. E ho finito tutti gli elementi dal palo e ciccia, e già ci divertiamo, dai, non ci possiamo lamentare. Io lo credo, va grande, va benissimo Daniele, va benissimo, nonostante il montaggio, anche se non è il massimo, però va benissimo ugualmente, perché il massimo significherebbe metterla sul tetto, comunque già va bene ugualmente, dai. alla grande. Allora, il piccoletto, poc'anzi, così si sta facendo il tribunale. Quanti anni ha adesso? 7 a febbraio per compiere. E sempre appresso la nonna, che noi eravamo, diciamo, quasi tutto il giorno a lavoro, dai, siamo entrati verso le 4 e mezza. E quindi la nonna se l'ha portato al parco, che c'ha gli amichetti suoi, poco fa sono passati e è voluto salire su adesso. Non aveva voglia di stare qua. E va bene. Ok, 7 anni, guarda la dura. Stavo dicendo, allora è già andato a scuola, la prima l'ha già frequentata. Ho ripreso. Ehi, Massimiliano, vabbè. No, Giulio, il prossimo, cioè a settembre fa la prima normale. E così si gode un po' troppo l'asilo, dai. Riprendi Massimiliano, una buonasera. Ehi, ciao Daniele, ciao Giulio, dai, non potevo mollare che stavo facendo una cosa, se no mi saldavo anche le mani, ci avevo saldato le mani. Ok, ciao Massimiliano di nuovo. Bene, va bene fare anche queste cosettine qua. Lo scopo del baracchino qual è? Anche quello di farsi ogni tanto qualche saldatura, no? La passione ti porta anche a quello, ti porta. Mi prendi? Stanno chiamando sul canale 10. No, io non ho sentito nessuno, ciao già. No, mi stavo saldando, non riguarda il baracchino, no, mi stavo allungando un cavo e non volevo mettere il nastro e balle varie, no. Me l'ho saldato, gli ho messo quella gomma, quella restringente, no, quella con l'accendino, che la scalda e si stringe. Mi stavo facendo una spinetta per una ventola grande, tipo un ventilatore, no. Ah, ok, ho capito, Massimiliano, ultimo lavoro. Con la termoresengente è un ottimo lavoro, è un lavoro bello, pulito, elegante e soprattutto molto, molto, molto efficiente. Sì, no, io l'avevo utilizzata io, quando ho fatto l'antenna, l'avevo fatto con l'asciugacapelli, l'avevo fatto restringere. Però adesso non ne ho più di quei tubicini, infatti le stavo cercando anche ieri e non l'ho trovato, eppure mi ricordavo di averne ancora qualcuno. Vabbè, ce l'avrà a usare, no? Suppongo di sì. Sì, una seconda. C'è anche la Blico, come ho o Giulio, io ne ho preso 3-4 rotoli l'altro giorno, di diverse misure, capito? E così non stai lì a pezzettine e cose, quando ti servi usi, capito? Buono sapersi, capita, e allora quando ci rivago via la bricome me la compro. No, perché già servono sempre, sai, perché fin quando non stai facendo niente sicuramente non ti serve, però alle volte, sai, è una prolunga, una cosa, un collegamento, eccetera, sempre serve, anziché utilizzare l'astronante. E poi mi sto facendo un'altra antenna, così, anche se non mi serve, però così per il gusto di fare qualcosa, se no cosa faccio la sera, con la mano in mano me ne mango. L'ho già iniziata, adesso devo comprare il cavo, devo comprare già il tubo per la mobile pronto, per cui adesso mi compro il cavo e poi procederemo. La canna pesca ce l'ho già, per cui problemi non ce ne sono. E qualcosa facciamo, da voi già ce ne posso per tenerla qua, può servire sempre, non si sa mai, se si tronca una e subito monti un'altra. Vabbè, avanti Gianni. Ciao Massimiliano, ben rientrato. Vabbè, così passi il tempo, così ammatti un po' di tempo, dici no, ti fai la paranoia senza farlo. Ma è da poco che non stai scendendo? Sì, certo. Tutti i giorni scendo, tutte le mattine, ma la sera sono qua. Per cui la sera qualche cosa devo pure fare, no? E tra una modulata e l'altra, sempre un qualche pezzo di filo e magro lo devo avere per lavorarci. Sì, no, stamattina ero in terapia già, per cui non ci sono potuto andare. Cioè adesso tutti i giovedì, per le 6 settimane ci devo andare a fare terapia, gli altri giorni sono sempre, tutte le mattine mancabilmente sono sempre in laboratorio. Vabbè, non lo so, faccio il tempo. Cosa mi stai costruendo? Laboratorio, qualcosa di nuovo? Ah, io, pure io ci sono. Beh, certo, ma ti abbiamo chiamato un po' calcio, e tu eri fallito, infatti abbiamo pensato che eri caduto dalla sedia. Che ne stai dicendo? Tutto il tuo microfono, caro. Oh, io già mi ho detto che non chiamare il caffè. Ma io adesso, guarda, sono... Ma non ci sei, non ci sei. Sarà così brutto. Oh, gli auguri, mi sembra un gatto di fuma. E anche gli auguri che avete fatto, amici, per sempre. Ma che sia comprato, Oh, c'è Sant'Antonio, è vero, auguri. Gli auguri, guarda, ti vedi. Sì, vabbè, noi abbiamo gli auguri, ma non paga a me, però. Vabbè, va sempre, perché per voi che non ci siete. Auguri, anche un po' faccia a casa, che andiamo a nostro vicinato. Ecco, capisco, se non si niente tu, se non si niente io non devo più, da quindi non andiamo a bere, acqua minerale. Sì, a mangiare, una menta, cosa vuoi dire? Se non si niente lo parla, mi guardano come se fosse un finocchio. Ah, io prendo menta così, non così, penso, poi quando non stai parlando, ho la menta, oppure qualche volta il cardinale, che mi piace un bel, per lo fresco. No, io quando viaggio lo prendo sotto di frutta. Ma non è sempre però, no, non torniamo più di qua. Ah, ho visto per noi. Ah, vabbè, dai, dai, dobbiamo scendere giù, sono arrivati ospiti. Ci sentiamo, grazie per la cassettina. Ciao Gianni, Massimiliano, Daniele, Antonio, grazie a tutti per la chiacchierata, Claudio se sia ancora all'ascolto, ci sentiamo alle prossime, dai, ascolto fino a lì, poi chiudo, ospiti, ci sentiamo, vai Massimo. Sì, ciao Giulio, dai, buona serata e buon divertimento, va, buona continuazione, avanti Antu. Sì, ciao Giulio, buon proseguimento, ci sentiamo alle prossime, buona serata. Vai Gianni, doppio run. Ciao Giulietto, stammi bene, dai. Buona continuazione, serata, grazie per il consiglio. Avanti Massi. Aspetta, c'è anche Daniele, vai Daniele. Scappa, dai, ciao Giulio. Buon proseguimento e buon tutto. Mi sai, c'è la Luca sotto, chi è? Questo è Lucariello, Mamma mia, ciao Lu, buonasera. Ciao, ti vediamo, ascoltando, sì. Beh, se ti ho risposto, sì. Positivo, grazie, ti sento più tardi, ma sei da... praticamente ho fatto un microfono ionico. Ho fatto le cose, non Gianni mi ha fatto da quello, però voglio sentire le nostre parole, se da quello o no. Ma che Gianni? Su quel numero. Ah, si non ricopre di lui da Gianni. Scherzo. Ah, comunque, se ne aveva... bene, ma si vediamo. Praticamente la cazzo di quelle grandi. Già va bene, Lu. Però lo voglio ascoltare. E io rientro verso altre leve, va, se la faccio a casa. Vabbè, tu prova a mandarmi un messaggio, magari. Di sfuggita accendo, va. Che la sveglia sono alle 4 ore mattina, capito? Sì, ci sono io più tardi. Ehi, Lucaria, dai, due passaggini ce li facciamo, dai. Noi ieri notte. Vabbè, va, va tu, va, io te la adocciaggio adesso, te la guarda la macchina, a fare la spesa, te la guarda, io te lo sento una cosa, va. Ah, parlo, Gelo Lu. Buon proseguimento e buon tutto, dai, a dopo. E allora, Massimiliano, che ci dice? Stiamo aspettando le donne che rientrano, così andiamo a fare un po' di pappattoia che c'è fame. Chiava, chiava. E un po' di turni, là. Adesso la prossima settimana ci abbiamo dalle 3 alle 11 di notte, in baranoia, va. Minchia, vabbè, dai. Tu pensa che inizi col caldo e finisci col fresco, al contrario. E vabbè, diciamo che già c'è sempre fresco, là, perché c'è l'aria condizionata. Però la baranoia è il turno, capito? E vabbè, si fa anche quello, là. Avanti, Antu. Quella è la questione. E tu ti sento leggermente barattoloso. Perché non è uno dei miei apparecchi questi, e quindi io quando vengo in campagna qui ho questo. Esce così, non ne ho altri. No, vabbè, non è, secondo me non è l'apparato, secondo me è il microfono. Ma allora ti dico di più, questo microfono io prima lo utilizzavo, è un apparecchio mio. che adesso non ho qui a portata di mano, sono 78 plus, è uscita benissimo. E quindi l'ho lasciato qui il microfono perché l'ha presentato. E ho tenuto la radio, ho fatto questo 48, ma è una cagazza. Non ho mai il tempo di controllare nulla io, arrivo qui, vengo per rilassarmi, se ne parla per anche qui, sono fuggito. Ho capito, no? Io ti ascolto un pochino così, la verità, la radio è bella però rimane leggermente barattolosa. Che microfono è quello, Alto? Sì, è quello che fa di palmare, come ho capito, ce l'ho avuto anch'io, mi l'ho regalato a coso, a Dio il profeta quello lì. Quello sai con cosa esce bene, ti spiego. Se tu, siccome quello lì ha un circuito preamplificato, e c'ha una di quelle capsule proprio piccole piccole, se tu riesci a trovarti una di quelle capsule piccole, tipo le MB più 4 più 5, quelle capsule lì c'ha, se riesci a mettere una capsula quella con lo sfondo verde sotto, esce molto meglio. Sì, va bene, no, di quelle capsule non ho 2000, le capsule in garage, perché le utilizzavo quando facevo telefonia, quando facevo le cose senti. No, ma il problema è che tutti lui che non si attacca a questo tipo di apparato, perché quando si è fatto tutto era una bestia. Amplificato non fa mettercelo palmeggiare da tavolo, là. Tipo un più 4, un più 5. E lo so che io qua ti metto, non è complicato, ce l'ho il più 4, il più 5, ma la faccio di roba qui, a questo tempo mi serve magari per trovare una parecchia, ma non sono a casa, non ce l'ho capito. Sono vicino qui a casa, però se mi sono qui che devo trovarlo là, non ce l'ho, non so, non mi sono messo. E quindi io ho lasciato un cappello, non è mio, è vicino. No, va bene, è giusto per capito. Va bene, là. Ok, avanti Gianni. Gianni è sparito. Doppio boom. Ah, Gianni ha avuto i siti rombi. Sai, tutto quanto l'aveva cantato, l'aveva cantato il mio fratello. Dalla fine di cinema, loro mostrò, l'avevano lasciato 30 anni San Claudio, non so, era un video, sì, però avevo preso da una parecchio che mi aveva dato conto. Ah, Gianni Capri 2. Sì, sì, positivo. Allora, va bene, ma secondo me esce bene anche con un microfono dinamico tipo CTE, Umidra, una cosa del genere. Tutto qua. Chiedo con la ghita che sta mal di gola, poi non me ne vuole andare via, comunque, avanti Daria. Quello è l'aria condizionata di Massimiliano. No, ce l'ho prima dell'aria condizionata, già 2-3 giorni prima dell'aria condizionata, ma è una cosa impressionante. Che c'avevo mia figlia con la febbre, mia moglie che è raffreddata, mal di gola, quindi mi hanno contagiato. Quindi sono colpi d'aria di questa stagione qui, semplicemente, perché c'è caldo e odio ti scopri, non male che è fresco, poi pensi che ci sia caldo e c'è male che è forte, cioè, l'ha fatto anche a me, io sono sempre con le consigliere sacche. Sì, ma a me mi sta andando via proprio la voce, capito? E sono già una settimana che sto prendendo tachipirina, sciroppo e vabbè, che ci vogliamo fare? No, ma c'è un caldo da spavento, va. Io dove sto lavorando oggi c'è 37 gradi, è una cosa spaventosa, va. Aspetta domani, io stavo leggendo poco fa che domani c'è un caldo esasperato, aspetta. E vabbè, non sai che cos'è, che ha fatto dal freddo al caldo di quello spaventoso, capito, direttamente senza, perché io fino a 3 settimane fa ero occupato di pelle, tranquilla. Perché succede così, infatti? Perché quest'anno non ci sono state meglio stagioni. Siamo passati dall'estate all'invernazione, poi stiamo passando dall'invernazione all'estate. Però ormai non esiste più, non le quattro stagioni. Adesso fa inverno, estate, e boh. E vabbè, va. Avanti, Dalia. Si conferma, cavolo. Signor Morino, dai, che ancora un po' di tregua ce la lasci, che faccio temperatura vita e poi pian piano la aumentare, sennò guai. E adesso qui, Daniel, se fa questo caldo non vedi che me ne vado a mare, mi ci butto a bagno. Cava. Già ci vuole, adesso ci vuole un attimo di tempo, anche noi ci organizziamo. Non per me, più che altro per mia figlia che me ne è mai niente lo sei vedo. Ma io al mare. A me il mare non è che mi piace tanto, la verità. Io quando vado al mare mi butto a bagno così, poi metto sotto l'ombrellone, berrettina fresca, e sto tutto il giorno sotto l'ombrellone. E lei mai lo faccio per loro, capito? A mia figlia piace un bel. A me lo stesso, no? Che ci va arrivato più di tanto per questo mare. Adesso vediamo, lavoro permettendo, come riusciamo a organizzarci. A posto, va? Già entrato? A posto, già entrato. Tutto sistemato. Meglio così, va? Quindi sono contento per te. Cava. Io ero di turno, ho finito. Alle 4 abbiamo finito, alle 4 e mezza. Adesso a domani? No, domani sono libero, sabato c'ho 12 ore, dai. Sabato 12 ore. Sì, vabbè, dai, tutto lavoro, Dani, tutti dimmi. L'importante è guadagnarsi la pagnotta. E io lo stesso, dai, non è che faccio 12 ore, però adesso domani mattina faccio dalle 6 alle 2, poi dalla prossima settimana facciamo dalle 6 alle 3 e dalle 3 alle 11 di notte. A turni, Massimiliano, come mai questi turni? C'è un po' di fretta, capito? C'è un po' di fretta, quindi bisogna fare, per un po' bisogna fare questi turni, no? Poi abbiamo quello dalle 10 alle 4 e mezza del mattino, ma momentaneamente quello ancora non lo stiamo facendo. Gappa, avanti, Antu. Sì, mi approfitto per salutarvi che qua tengo tutto e me lo sto tenendo su a casa. Tengo tutto, sentiamo al limite se ci siete e dopo, grazie. Però vi saluto cordialmente e alla prossima. Ok, va bene, Antonio, dai, allora buona serata. Buona continuazione di giornata, ci sentiamo le prossime. Io non lo so, non sono sicuro, ma può darsi qualcuno lo trovi, dai. Avanti, Dani. Ciao Antu. Buon proseguimento e buon tutto, a dopo se coincide alle prossimine, dai. Cava. Che è rimasto qua, avanti. E boh, forse c'era doppio rumore con la bolla nel naso, non lo so. Doppio. Ho andato a portare il cane, anche lui. Lo porta a lui, ciao. Sicuramente sarà il cane, sta portando a lui. Ti soffrisce nella reccia, Gianni. Gappa. Quindi la radio di cosa va bene adesso? Di Lucca? Sì, Massimiliano, gira bene. Ieri notte, guarda, sino alle 11, meno 20, meno 25, stavamo facendo collegamenti al 45, ma collegamenti che sembravano quasi locali, con, non mi ricordo, con due posti diversi. Stavamo parlando in quattro, ma sembrava, guarda, una telefonata. È già bello quando così ti diverti. E si conferma. Pian piano è andato a aprirsi la propagazione. Cavolo, 9.25 stava arrivando questo qua, e l'altro 9.10. Noi stiamo arrivando intorno agli 8, capito? 7 a picchi di 8, anche a 9 arrivavamo. E quelli c'hanno cavalleria sotto, capito? Cava. Lo so, è una cavalleria, però riuscivamo a comunicare, a sentirci bene, radio bella, siamo divertiti, dai, due chiacchiere, un po' di passeo al di fuori di qua l'abbiamo fatto, dai, qualche collegamento abbiamo fatto, bello. Anche lui che è rimasto contento, lui stava girando con i suoi fatti originali alla radio. Vabbè, anche perché se mette un aiutino c'è un po' di stazionario lui, quindi è un problema. No, io ho portato due alimentatori. voglio sistemare a mio cognato insieme a Claudio, ci abbiamo bevuto un paio di birrette e poi alle 9 siamo rientrati a casa, mi ho guardato un pezzo di Dinamo, io non ero neanche a casa mia, ero da mia suocera e poi verso 10:30 me ne sono andato. Eccomi. Ehi, a Claudia. Ehi. Cava. Dovetta Daniele, e quella radio è bella e funziona bene, anche era la doia. Ma ragione. L'ho spiegato, ha detto lui. Ne aveva tante, una se l'ha versata e poi sempre tramite lui l'ha fatta prendere a Luca, meno male. Almeno sa che c'è una radio buona, dai. Beh, alla fine, diciamo, per poca spesa molta resa, diciamo così. Sì, dimmi Gianfra. Sì, buonasera a tutti. 1,80 ci sono riuscito. Ti ho rifiutato un radiale perché era troppo corroso, ma si possono tenere anche attaccati gli altri due, non mi fidato di me, ok? Va bene, 1,80 già ci sta in macchina Gianfra. Ci sentiamo domani e ci mettiamo d'accordo, ok? Grazie Gianfra. Di niente, ciao Claudio, ci sentiamo. Gappa Gianfra, ok. Va bene, ho recuperato l'antenna. Avanti Massimiliano. Sì, dai, saluto a Gianfranco. Buonasera, se volete stare qua, problemi non ce ne sono, tanto stiamo facendo un questo carino, dai. No, ti ringrazio, devo andare a cena. Buona serata a tutti, ciao. Ok, allora ti auguro una buona cena e una buona continuazione di giornata. Avanti Daniele. Capa il rogio, ciao Gianfranco, ben sentito, dai, cordialità. Alle prossimine. Ok, riprendi qua. E poi appunto come ti stavo dicendo Daniele, con le radio, tutte le radio Massimiliano tramite l'S9 che l'ha tenuto lui, erano tutte dentro una scatola, le ho tutte provate, usate, anche la tua, tutte, anche quella lì, capito? Anche quella che c'è a Lucca. E poi Massimiliano ha deciso di versarsela, ha fatto un'operazione tramite lui, poi perché Luca gli era chiesto di trovare una radio, le ha fatto prendere quella, ha fatto bene. Poi il prezzo l'ha pagata quella, una signora radio, veramente una signora radio. Beh certo, per quella cifra diciamo che è regalata, ecco, perché sappiamo ormai le cifre che stanno girando sui mercatini e poi bisogna avere anche la mondetta che trufi, capito? Quella si sa che è fatta in grazia di Dio, poi quella radio c'ha tutte le bande laterali e bande varie, capito? Quindi la puoi utilizzare anche normale. Perché non l'ho provata con le... MB+5, una canonata, funziona bene, poi l'iPhone 2 è un Pluto e un Galaxy, sono tutti uguali, va molto bene, va molto bene, anche quella di Daniele è ottima veramente, guarda, c'è una ricezione, una trasmissione favolosa la mia, quella se la usi con quella levetta abbassata, Mickey Gain a metà. L'MB+5 a 5-6, se la uso io non ti accorgi se sto usando questa o quella. Lo immagino. Cava. Daniele, quella lì è bella veramente, non perché era la mia, però quella c'è una bellissima ricezione. E si conferma perché l'ho provata io. Ma Daniele, ti prendi un MB+5, me lo vuoi a 30 euro, nuovo dentro la scatola, ce l'ha già mica capolito che lo sta vendendo. Per fare QSO quando non vai sui 45, anziché usare il microfono normale, tu che non hai problemi, abbassi la levettina e l'inserisci nel MB+5 e lo usi come un baracchino normale. Quando poi vuoi andare nel 45, stacchi il MB+5, sollevi la levetta, microfono normale, su che andiamo. Ce l'ho. È che devo avere tempo e voglia più che altro di guardare se è rimasta la capsula dentro quel microfono che magari non gli era successo. Ma se ti metti un MB+5 lì, guarda, le connessioni di quella radio sono uguali alla LAN 48, precise ed etiche, perché io non l'ho cambiata la connessione, quella dell'Elbex se usavo l'MB più 5 senza cambiare la connessione al 48. Perciò, ma ti dico, va una radio, ma radio, però te ricordo che l'ho fatta sentire Massimiliano. Eh sì, una bella radio, sì, è vero. Oh, Dani, mi sembra che ne ho una di quelle capsule lì da darti per il più 5 se non ce l'hai. Cava, adesso come c'ho tempo per questi giorni, salgo e lo controllo. O scendo qua a casa. È vero, se era funzionante, però c'era un problema di capsula che non si adiceva alla voce mia, boh. Oppure con quel cacchio di DAC che dava problemi. Ah, sapete lo DAC, Daniele, non ha mai bugato bene. Ha funzionato un periodo, poi non andava bene con il mio P5, poi non usciva, poi fischiava, poi faceva un casino. Ma sapete il DAC, ma quella ce le metti le MB più 5 e fai come ti sto dicendo io, così non ti rompono le palle. Quando siamo ai 10 le attacchi le MB più 5, quando sei nel 45 le metti il microfono normale e la fai rullare e la fai andare come un baracchino normale. È una cannonata, anche perché tutta chiusa, nel senso abbassi la levetta, tiri su tutta la potenza, capito? Oppure la puoi usare come la usi normale, cioè anche il linealetto, ma se non vuoi usare il linealetto tiri su tutta la potenza, è una cannonata quella radio. Eia, eia, no, ma di questa guarda, va più che bene. Ah, ci hai messo la pulce nell'orecchio, già lo preparo quel microfono là. Poi se mi serve la capsula, è vero, se Massimiliano ce l'ha, la piazzo dentro. Ce l'ho, aspetta, passo qua un attimo. Ok, cambiato il radio, quella cos'è? Il Pluto. Questo è il Pluto, bene va. Adesso un'altra radio, uno pompa. Dai, cosa ne pensi di questa? Già viaggia anche quella, Massimiliano, viaggia. Questa è la stessa mano della tua. Ma quella usata lui o Massimiliano? Non mi ricordo se questa l'hai usata, boh. Quella tutta rossa, Ah, sì, l'ho usata. Questa è bella, questa pompa, Questa è pompa. Pompa. Ma guarda che io l'altro giorno, non ve ne siete manco accorti, Daniele, c'eri anche tu e non mi hai detto manco va. Allora un 48, quello modificato. Ho chiuso l'ecco, l'ecco chiuso. Ho messo il micchigin appena aperto, neanche a metà, meno della metà. L'MB più 5, perciò il connettore all'an 48, l'MB più 5, con i toni come li uso io a 1, l'ho messo a 3, perché se lo usavo, anche a 4 lo potevo usare, se no fischia, perché chiaramente c'è il parlascolta, capito? E non se ne è accorto nessuno che stavo modulando con quella. No, è bello, anche il 48 è regolato bene adesso. No, funziona bene, adesso funziona bene. Alla grande, le regolazioni che abbiamo fatto assieme sono così, non le ho toccate, la potenza è sempre a 3 watt, e boh, lascio stare così, va bene. Cava, io ho la voce, mi sta sparendo. Positivo il capo brioche, questo Daniel, lo sto usando io, vabbè, questo c'è anche il parlascolta regolabile, davanti, allora, c'è anche la tonalità, guarda, la sto cambiando, dimmi un po' così, ho cambiato la tonalità, com'è, meglio o peggio? No, mi piaceva più prima, la verità, Massimiliano. Ok, dai, quindi questo deve andare così, giusto? E io. Va bene, là. Michigini alle ore 3. E va bene. Aspetta un attimino, allora. Così l'ho aumentato un pelino, meglio, Ma cazzo, ma microfono amplificato sei già? Non c'è un microfono amplificato, un CT è questo, Cazzo di una radio, ma niente. Spinge bene, Ecla. Spinge, mi gusta. Vuoi fare uno scambio? Non tocca se. Se tu pensi che quello che c'ha Luca, e qua c'è Massimiliano, non sto raccontando ballo, quella che c'ha Luca, la radio, perché a me Massimiliano mi ha regalato un baracchino, l'Elbex, bellissima radio, dove io ci viaggio molto bene, perché anche lì l'MB più 5 rulla, regolazione regolabile, eccetera, e cioè vatti regolabile, eccetera. Se tu pensi che invece di quella radio Massimiliano mi stava regalando, io non l'ho voluta, mi stava regalando quella che ha comprato Luca, vero o no? Vero. Daniele, casa mia, gliela stavo regalando non la frutta. Che sarola, peccato, ecco. Perché c'è veramente, veramente bene anche quella di Luca, seriamente. Io non l'ho sentito, però se mette un microfono come Dio comanda, spinge forte. Sì, Daniele, ma ti spiego il perché non l'ho voluta, non perché non l'ho apprezzata, per carità. Perché per me, siccome con Massimiliano facciamo di tutto e di più, ci scambiamo tante cose, ci facciamo tante cortesie, vicende, eccetera. E lui mi voleva regalare questa radio, ho detto, Massimiliano, questa non la voglio, se mi vuoi regalare un baracchino, dammene un'altra. E mi sono scelta quella là che è normale, un baracchino normale, senza eco, però è modificata, c'è un sacco di canali, è molto bella, mi piace. Ho detto, questa è sprecata per me, perché non la uso, la uso pochissimo, anche perché sapete che io non ne posso approfittare, poi mi ha fatto casino, è 45 eccetera, però non me ne ha fatto nulla, ma a prescindere, non la uso molto, ok? Quindi l'ho detto, tienitela tu, magari fai uno scambio, te la vedi, fai... fortunatamente è andata così, capito? Non è che non l'ho voluta perché non l'ho apprezzata, assolutamente, perché era una cosa troppo grande, nel senso che era un valore grande che lui poteva realizzare altre cose, così ha fatto, capito Daniele? Cava, va bene, comunque già, adesso c'è l'Ugariello e allora si diverte anche lui, dai. Adesso lo sai, la facciamo, siccome lui poco fa ha detto che mette a posto quel 4,40 come Dio comanda e me lo deve regalare, se lui mi regala quel 4,40 io le faccio un bel regalo, le regalo un serpente. quello morsica, Massimilià, qua c'è Daniele e tu lo sai che io quando parlo con te parlo a voce piena, senza peli della lingua, senza niente. Io quella radio la metto a posto, se non io ci sarà qualcuno che la fa funzionare come dico io, perché è veramente in ordine. E quella radio io te la regalo, capito? Dobbiamo avere tempo e pazienza, perché ci sono belle cosette purtroppo che io non sono all'altezza di fare, perché non ho strumentazione, non ho capacità, non ho tecnica, quello che ho potuto fare io l'ho già fatto. Adesso l'unica cosa è che io domani mattina, tanto mi sono 40 gradi, non esco di casa, ci arrodutto, mi metto il tavolino di nuovo qua, la riapro tutta come l'ho aperta e controllo se arriva tensione intanto al frequenzimetro. Se la tensione al frequenzimetro arriva, allora non facciamo altro tramite te, perché io non c'ho niente che posso fare, ok? Si carica la carta, si fa tutto e si ordina il frequenzimetro nuovo. Quello sono alla testa di sostituirlo, perché tante spinette non è una grande cosa, se non me lo faccio sostituire da Gavino. E iniziamo a vedere qualcosa e poi si controllano tutte le tensioni, se ci sono condensatori scoppiati, diodi e resistenze, me li faccio sostituire da Gavino, gliela do già pronta a dire, ecco, questa la sostituire, questa sostituire, lavora su questa linea e noi quella radio la mettiamo a posto, non si vede, tranquillo, perché c'ha una trasmissione, una ricezione così com'è, che è già mezzo sorda, però funziona veramente bene. Ti faccio una domanda, Francesco? Francesco si potrebbe anche sentire e vedere, Francesco potrebbe essere una soluzione, ma non ci posso mettere tanti soldi sopra, Massimo, capito? Devo cercare di risparmiare il più possibile, con una mano mia, una mano di qua, me l'avrebbe fatta Fabrizio, però me l'ha già detto, non ha tempo, pagando naturalmente, ma è chiaro che ci risparmi nelle condizioni in cui è adesso, ci risparmi sicuramente, comprando i pezzi, pagando disturbo, pagando le ore, pagando tutto, non è un problema, ma mandandola fuori ti partono già 50 euro così, tra andare e tornare, capito? Invece tenendola qua già si risparmiano quelli 50 euro, che poi ce ne vogliano altri 150 sopra, non me ne affutti nulla, non sto guardando quello, ma non penso, perché se fosse stato il VCO da rivedere, quella radio non avrebbe né ricevuto né trasmesso, invece riceve e trasmette, bassa, perché le tensioni giorni sono tutti a casino, qualcosa c'è da sostituire, ma non c'è da fare la parte di ciò. Tranquillo, perché è un altro problema questo, è un problema di usura, è un problema di abbandono di radio. Ragazzi, riprendo io che qua è pronto, dai, ci sentiamo più tardi se ci siete alle prossimine. Sì, a Daniele, ciao. Cappa Rogero, là. Ciao Daniele, buona serata, buon divertimento, buona carica batteria, ci sentiamo, là. Ciao ragazzi, contraccambio al 100, dai. Di sicuro dopo cena vi faccio due passaggi con Luca a sentire questo microfono, se volete entrare. Mandami un messaggio, se sono libero, che ho già cenato, ecco, vabbè, è che la sveglia mi sono un bel prezzo la mattina, però là, mandami un messaggio, magari entro, non lo so, magari un paio di passaggi, giusto per ascoltare, là. Va bene, ok, dai, a dopo, buon tutto, dai. A più tardi. Ciao Daniele, ci sentiamo, avanti qua. Ciao Daniele, alle prossimine. Io sono entrato a fare il cane. Allora mi dico, pantaloni già mi stanno scaldando le balle. Cappa cappa, sì, ma ci vediamo, tranquillo che piano piano già si riesce a mettere a posto. Lì è un problema di usura, problema di radio ferma, non alimentata. Lì se le tensioni non sono giuste è una radio precisa, capito? Come diceva anche Roberto, che è abbastanza tecnicamente preparato, più di me, è amatore di Alghero, sta dicendo che chiaramente le tensioni vanno tutte riviste, la prima cosa, perché se le tensioni non sono giuste è chiaro che non arriva l'alimentazione neanche al frequenzimetro. Seppure le tensioni sono giuste per quanto riguarda quella linea lì, evidentemente il frequenzimetro è bruciato, si cambia, c'ho 40 euro, 50 euro, non sarà nessun problema. Sì, claro, bisogna anche vedere se è quello, capito? Bisogna vedere prima di cambiare, di comprare, bisogna vedere se è bruciato. Secondo me invece non è bruciato. Ma anche secondo me, VFO è perfetto, gli scambi li fa tutti, Down Up mi ha segnato tutto come mi hai detto tu, che è un'idea fantastica, ho fatto riferimento di centratura sul mio, ho contato poi ad arrivare alla 27 quanti scatti devo fare, li fa giusti e perfetti, quindi il VFO funziona tutto, l'accolatore è velocissimo. Funziona, riceve e trasmette, in AM ad esempio non riceve ma trasmette con bassa potenza, quindi anche lì potrebbe essere la tensione sulla parte del finale, tensioni sono, mi stava dicendo Roberto, tensioni sballate, tensioni che non arrivano, quindi può darsi come sattore a sostituire, qualche resistenza, qualche diodo, lo smitter che non sale in ricezione ma sale solo in trasmissione. Sono cose che bisogna verificare e vedere, però ci vuole la capacità giusta, la strumentazione giusta e fare le cose che le sa fare. Eh beh, certo che è così, dai, non può essere altrimenti. E vabbè, dai, e piano piano, claro, non ti preoccupare. Poi vabbè, parliamone via motozappa, che qua ci sono troppe orecchie. Non so che vorrei di nulla nessuno, io non lascio via. A me della roba mia ne faccio quello che voglio, non ce n'è problema. La regalo a chi pare piace a me, quindi non ho rubato niente, la giugo parada, quindi. Perciò sai anche di chi era, perché tu lo sai. Quindi lo sai, a te non ti nascondo nulla. Anzi, sono riuscito a farmela dare perché non me la voleva dare. Siccome loro ne hanno una ad Olbia di quelle radio, la volevano tenere a pezzi di ricambio. Ho detto no, prima di sfasciare tutto, fammi controllare cosa è, così giusto a dare un'occhiata, niente di che, una curiosità, voglio vedere se come è fatta, come non è fatta, se tu dentro nuova, ma come fai a fare a pezzi di ricambio? Solo, ti ripeto, pulendole le cosette, cercando così, ma senza toccare nulla, giusto per passare un po' di tempo, sono riuscito a far andare la trasmissione, se non andava. Non andava a nessuna parte, era completamente muta, capito? E quindi ho detto, no, la radio io così a pezzi di cambio non conviene. Cioè perché sono riuscito almeno a farla accendere e farla andare in una banda. Ho detto, ma dai, me la data. Sì, comunque a titolo informativo Francesco si può chiamare? A titolo informativo, tu tanto c'è il numero, sai cosa devi dire? Sì, sì. Vabbè, Francesco è abbastanza onesto, Tu sai che il lavoro me l'ha già fatto, anche se una parte è andata a casino perché è nuovamente muta, la parte V. La parte U funziona, ma un po' come interessa. C'ho l'altra, una in V e una in U adesso. Anzi, due in V e una in U. Però anche lì potrebbe essere qualcosa che è partita dopo il lavoro che ha fatto lui. Capito? Dobbiamo vedere, però è abbastanza soddisfacente per quanto riguarda il lavoro e il prezzo, Francesco, Certo non la possiamo andare a Bianconi a radio. La seconda volta mi ha domandato 100, più di 220 euro, non ti ricordi? Sì, per quello te l'ho detto. No, ma sicuramente, perché quando è tornata quella là, quella che avevamo mandato, ti ricordi? È tornata che l'ha funzionata al 100%. Può darsi che poi sia successo qualcos'altro. Però a titolo informativo, spiegandole queste cose, lui più o meno sa, capito? A titolo informativo al telefono ci ho provato una volta e mi ha detto, mi spiegava appunto la faccia, tante cose, vogliono vizie, messo al banco, attaccati strumentazione, eccetera. Se per quello a titolo informativo me la metto in macchina, me ne vado, lo sai, no, di là in montagna e la radio. Stai pur certo che mi dice dall'A alla Z quello che c'è da fare e quello che non c'è da fare. E allora come la fa usci? Sì, infatti sto sottotitolando perché non sta bene. Ma tranquillo che c'è come ti dico io, non c'è problema. Va bene Massimiliano. Aspettiamo i 20. Mi è ancora accesa, lasciata accesa. Funziona anche la ventola, perché stavo trasmettendo un FM, punto di dietro la calda, dissipatore. Dopo due minuti mi dice ticchi, ti ha detto pure al vento la funziona, quindi piano piano col calore, con le cose, perché prima non funzionava, avevo provato, solo diretta funzionava, quindi piano piano con la pulizia che ho fatto le cose stanno saltando fuori, dai, una funziona, l'altra non funziona, una funziona bene, una funziona male, piano piano. Ma infatti, tu più la lasci accesa è migliore, capito? Gabriele, mi stanno suonando giù, dai, che sono arrivate loro, mi sta mancando anche la voce perché non so bene di ora e di cosa. Sentiamo dopo al limite tramite le motozappe, ok? Vai, vai tranquillo, prenditi un nifla e un bicchiere di latte caldo col miele stanotte. Ciao, bello, ci aggiorniamo dopo via telefono, ciao. Ciao.